Radio Popolare vi ha presentato La Caccia, Caccia l'ideologico quotidiano, una trasmissione a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Grazie, grazie per la vostra cortese attenzione, grazie a Cristiano Valli per la regia, e un ringraziamento particolare anche all'amico Leopoldo, che ci ha fatto prevenire alcune acute sue osservazioni linguistiche semiologiche, diciamo così, per dire la svelta, e di cui terremo sicuramente conto. E i migliori auguri per una buona giornata. L'appuntamento rimane confermato a domenica prossima alla medesima ora.